La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato alla storia del Sudafrica, paese che ospiterà i prossimi mondiali di calcio del luglio 2010 per la prima volta nel continente africano. Ospite ai nostri microfoni Mario Zamponi, docente di storia e istituzioni dell'Africa all'Università di Bologna. Nelson Mandela, ovvero il simbolo dell'emancipazione del Sudafrica dall'apartheid, l'uomo che ha scontato con 27 anni di carcere la sua battaglia per l'affermazione dei diritti dei neri contro la segregazione razziale, presidente del Sudafrica dopo la fine dell'apartheid e poi premio Nobel per la pace nel 1993. Ora Mandela, Madiba come lo chiamano confidenzialmente gli amici e i collaboratori, ha 92 anni. Dal 2004 si è ritirato dalla vita pubblica. Alla sua figura è dedicato il film Invictus di Clint Eastwood, in cui si narra del tentativo di Mandela di pacificare il suo paese attraverso lo sport più diffuso, il rugby. Oggi inizia una nuova era per il Sudafrica. Mandela assume la presidenza e con essa l'arduo compito di conciliare le aspirazioni dei neri con le paure dei bianchi. Tutti i bianchi tifano per il Sudafrica. Tutti i neri tifano per l'Inghilterra. Questo deve cambiare. Dimmi, François, come possiamo ispirarci alla grandezza quando nient'altro può aiutarci? Allora chi voleva? Vuole che vinciamo la Coppa del Mondo. Questo rugby è solo un calcolo politico? No, è umano il calcolo. I tempi cambiano e dobbiamo cambiare anche noi. Bunkers! Sì! Sei tu che parli o Mandela? Questo è il momento di costruire la nostra nazione. Avresti mai immaginato? Come avrei potuto? Li sentite? Ascoltate il vostro paese! Questo è il nostro destino! In Sudafrica si occupa anche il Festival del Cinema Africano di Asia e America Latina, in corso a Milano dal 15 marzo, con la sezione di film e video Africa nel pallone, in previsione dei campionati del mondo di calcio che si svolgeranno proprio in Sudafrica dall'11 giugno all'11 luglio prossimi. Un'occasione in più per sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale sul Sudafrica di oggi e sul grande tributo che il mondo intero deve a una figura come Nelson Mandela. Quando nel 1963 venne arrestato dal regime di Pretoria e condannato all'ergastolo, Mandela pronunciò davanti ai giudici un discorso che rappresenta la più alta testimonianza del suo impegno politico e sociale. Sono pronto a pagare la pena, anche se so quanto triste e disperata sia la situazione per un africano in un carcere di questo paese. Sono stato in queste prigioni e so quanto forte sia la discriminazione, anche dietro le mura di una prigione, contro gli africani. In ogni caso, queste considerazioni non distoglieranno me, né altri come me, dal sentiero che ho intrapreso. Per gli uomini, la libertà nella propria terra è l'apice delle proprie aspirazioni. Niente può distogliere loro da questa meta. Più potente della paura per l'inumana vita della prigione è la rabbia per le terribili condizioni nelle quali il mio popolo è soggetto fuori dalle prigioni, in questo paese. Non ho dubbi che i posteri si pronunceranno per la mia innocenza e che i criminali che dovrebbero essere portati di fronte a questa corte sono i membri del governo. Solo nel 1990, in seguito alle pressioni internazionali e al mancato appoggio degli Stati Uniti al regime segregazionista, Mandela viene liberato. Presidente della Repubblica e premio Nobel per la pace, ha ottenuto dalla città di Johannesburg la più alta onorificenza cittadina, il Freedom of the City, una sorta di consegna delle chiavi della città. La canzone l'avete senz'altro riconosciuta, è di Miriam Makeba, la grande cantante sudafricana scomparsa il 9 novembre del 2008 per un attacco cardiaco a Castel Volturno, dove qualche ora prima, nonostante forti dolori al petto, si era esibita in un concerto contro la camorra dedicato allo scrittore Roberto Saviano. La sua battaglia per l'emancipazione delle donne e degli uomini in Africa e nel mondo è ancora vivissima, come ha messo in luce il Miriam Makeba Tribute organizzato a Roma dal 10 al 13 marzo. E con noi oggi il professor Mario Zamponi, che è ricercatore di storia e istituzioni dell'Africa all'Università di Bologna, autore di un libro che si chiama Breve storia del Sudafrica, dalla segregazione alla democrazia, pubblicato da Carocci. Professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi di avermi invitato. Professore, ci aiuti un po' a capire oggi il Sudafrica, dopo le grandi conquiste che si devono appunto a Mandela, che Sudafrica è? Cioè il Sudafrica che sta anche per affrontare importanti eventi internazionali, qual è ad esempio un campionato del mondo? Sì, intanto, come si saprà, sono 20 anni, quindi anche questo è interessante, dalla liberazione di Nelson Mandela e quindi dall'inizio della fase di transizione che ha poi portato al processo di smantellamento del sistema di apartheid in Sudafrica. Quindi è un, diciamo, in qualche modo un consuntivo 20 anni dopo, in un certo senso. E certamente il Sudafrica è un paese che ha ottenuto enormi risultati in termini di sviluppo di un sistema democratico, di una procedura di riconciliazione nazionale e di sostegno soprattutto a quella parte di popolazione che durante il regime di apartheid era stata completamente messa da parte dal sistema della minoranza bianco. È oggi un paese molto però complesso, in cui sopravvivono diverse eredità della sua storia e diverse aspettative anche di diversi gruppi della popolazione, e deve affrontare molte sfide di tipo economico-politico, come la lotta alla povertà e la questione dell'AIDS, ad esempio. Ecco, in questo Sudafrica di oggi, quale quello che lei descrive, la figura di Mandela come si inserisce, come è vissuta? Sappiamo che oggi Mandela è fuori dalla vita pubblica, ha 92 anni, però come è percepito, come una sorta di padre della patria un'icona? Sì, no, è per certi versi un po' anche un'icona, no? In un certo senso, ma in senso positivo, nel senso che comunque rappresenta l'emblema di quel passaggio storico che ha posto fine al sistema di apartheid, e quindi in questo modo incarna gli ideali di quella che è stata definita la nazione arcobaleno, che però è ancora in corso di costruzione in questo senso, cioè quelle che sono le sfide per creare un Sudafrica sempre più democratico e sempre più caratterizzato da una grande convivenza multirazziale, trova nella figura di Mandela l'espressione di questo desiderio verso un ulteriore miglioramento delle pratiche politiche del paese. 27 anni di carcere, professor Zamponi, per un uomo che ha fatto la storia, non solo del Sudafrica. Come si arrivò nel 1990 alla sua liberazione? Questa è una storia un po' lunga, non si può, è difficile sintetizzare in pochi minuti. Proviamo. Certamente ci sono vari fattori. Già dalla metà degli anni 70 il Sudafrica comunque era in difficoltà, soprattutto di tipo economico. Non va dimenticato che molto dell'establishment economico fu quello che fece pressioni perché gradualmente si arrivasse a dei processi di trasformazione. L'arena internazionale ha anche aiutato questo processo nel momento in cui, soprattutto nel corso degli anni 80, si è rafforzato un processo di sanzioni, e soprattutto da parte di paesi come gli Stati Uniti, che hanno maggiormente incentivato un'iniziativa di cambiamento. Vorrei però qui ricordare, visto che parliamo così comunque di memoria storica, eccetera, indubbiamente importante, anche se non può essere usato come l'unica spiegazione, ma certamente emblematico è la rivolta dei giovani a Soweto nel 1976. Quello marca decisamente un punto di svolta della crisi interna al Sudafrica. Quindi un percorso molto lungo che ha moltissime ragioni, e proprio per il fatto che sia stato anche un processo così complicato ha portato ad una soluzione poi negoziale in cui la riconciliazione è stata al centro del nuovo Sudafrica. Ecco, Mandela nel suo discorso che pronunziò nel 63 quando venne arrestato e poi condannato all'ergastolo, disse che sono stato in queste prigioni e so quanto forte sia la discriminazione. Per gli uomini la libertà nella propria terra è l'apice delle proprie aspirazioni. Qui forse si può, professore, anche cogliere il senso anche dell'idealità forte che spinse Mandela nella sua azione, che poi diede i frutti che lei ha appena esposto. Sì, certamente, è evidente che come dire, la storia della discriminazione razziale del Sudafrica è stata così rilevante, ha così pesato sulla vita delle persone, non solo dei leader come Mandela e gli altri che sono stati incarcerati insieme a lui, ma anche della gente comune. Questo, diciamo, interiorizzazione dell'anelito verso la libertà, verso il rispetto, eccetera, è indubbiamente il percorso che ha in qualche modo caratterizzato la lotta politica anche di coloro che erano in carcere.